Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Trovato l'uomo da due giorni in fuga dal Piemonte alla Spagna, con lui il figlio di appena 2 settimane, il bambino starebbe bene. Sequestrato un peschereccio italiano al largo della Libia a bordo 7 marinai, intanto proseguono gli sbarchi, in 700 sono arrivati nelle ultime ore a Pozzallo. Carlotta Sami dell'UNHCR sui migranti cristiani buttati in mare, notizia da prendere con cautela, sul barcone non era in atto una guerra fra religioni ma uno scontro fra gruppi nazionali diversi. Renzi negli Stati Uniti, Italy's back, dice nel pomeriggio l'italiano l'incontro con Obama. L'Italia, fa sapere il premier, continuerà il suo impegno per stabilizzare la situazione in Libia. Sul fronte politico interno invece Renzi apre ai dissidenti sull'Italicum, il Senato può tornare elettivo. La protesta dei lavoratori Whirlpool contro i 1300 esuberi, blocco il stradale a Caserta, annunciata la chiusura degli stabilimenti di Carinaro e None, accorpamento per quelli marchigiani di Albacino e Melano, qui nascerebbe il maggiore polo europeo dei piani cottura. Ad effetto giorno sentiremo i sindaci di Carinaro e Fabriano. Sciopero dei mezzi pubblici a Roma e caos sulla metro A, il treno alle 8.30 si ferma, i passeggeri furiosi occupano i vagoni. E siamo al calcio, in una Milano che rialza la testa grazie all'Expo e al Salone del Mobile, arriva il derby della Grande Depressione. Buongiorno da Maria Piera Ceci, effetto giorno chiocciola radio24.it, vi ricordo anche la nostra pagina Facebook. Torniamo subito sulla notizia con cui abbiamo aperto i nostri titoli. Per fortuna sembra finita bene la fuga dell'uomo che dal Piemonte da 2 giorni davvero stava tenendo tutti col fiato sospeso, dal Piemonte era fuggito con il figlio neonato. Ci informa in diretta Cristina Carpinelli. Sì, sarebbero stati trovati, come dicevi Piera, Enzo Costanza e suo figlio di appena 15 giorni, lo hanno annunciato proprio pochi istanti fa i carabinieri. I due sono stati trovati ad Albacete, in Spagna, Castiglia. Il neonato sta bene, è stato trasferito in ospedale, in pediatria per controlli. Costanza, impiegato torinese di 39 anni, martedì si è allontanato col figlio di appena 15 giorni, una fuga pare pianificata che dall'Italia è proseguita in Francia, poi in Spagna. L'uomo era diretto in Portogallo, in una delle sue tappe avrebbe comperato latte in polvere per il piccolo. Non è mai stato un violento, con il bambino era affettuoso e protettivo, questo quanto ha detto la moglie ai carabinieri che da Torino hanno coordinato le ricerche, nelle quali poi sono state coinvolte anche la gendarmeria francese e la guardia civile spagnola. L'uomo è indagato per sottrazione di minore. Prossimi aggiornamenti nel corso dei prossimi giornali radio. Grazie a Cristina Carpinelli. Per fortuna dunque questa vicenda sembra conclusasi bene. Torniamo invece sull'emergenza immigrazione e le tensioni con la Libia. L'avete sentito nei titoli, un peschereccio italiano è stato sequestrato nella notte mentre non si fermano gli sbarchi. Il punto con la nostra Valentina Furlanetto. Valentina. Sì, buongiorno Piera agli ascoltatori. Erano le 3.30 di questa mattina quando a circa 30 miglia dalla costa libica in acque internazionali un peschereccio italiano è stato affiancato da una motovedetta di miliziani di Tripoli. Gli uomini armati sono saliti a bordo, hanno tentato di sequestrare l'imbarcazione. Dopo ore di incertezza sul destino proprio di questa imbarcazione si è saputo che ora è in fuga verso Lampedusa, scortato da una nave della Marina Militare. Sembra, ma sono ancora notizie frammentarie, che due libici siano saliti a bordo e poi l'equipaggio, 7 persone dell'equipaggio di questo peschereccio, sarebbero riusciti a ribellarsi chiudendo i due nella stiva. Poi è scattato il blitz della Marina Militare che sta ora scortando la nave verso le coste italiane. Ma poco fa avevamo sentito il presidente del distretto pesca che aveva lanciato l'allarme, allora sentiamo la sua intervista a Giovanni Tumiolo. Sotto la pressione delle armi hanno sequestrato il peschereccio e gli uomini dell'equipaggio, sono 7 gli uomini dell'equipaggio, sono 3 italiani e 4 tunisini, perché da noi gli equipaggi si sa sono misti. Abbiamo preso i contatti già col ministro di Tripoli, col ministro dell'agricoltura, il quale non era informato, e quindi questo ci dimostra, qualora ne avessimo bisogno, che in Libia si muovono tante entità separatamente. Staremo a vedere dunque l'evoluzione di questa vicenda che non può che acuire comunque le tensioni con la Libia, da dove parte la maggioranza dei barconi carichi di migranti in arrivo nel nostro paese. Valentina. Sì, è proprio E stamattina, tra l'altro, alle 7.30 è arrivato un altro sbarco al porto di Pozzallo di migranti che erano a bordo della nave Fiorillo da ieri pomeriggio in rada. Sono rimasti nella notte a bordo perché il centro di prima accoglienza era saturo per due precedenti sbarchi. La polizia ha anche fermato un tunisino accusato di essere lo scafista. Altri 200 migranti sono imbarcati su un mercantile e sono attesi oggi a Trapani. Ma per quanto riguarda l'operazione di stamattina, abbiamo sentito la capo missione di Medici Senza Frontiere a Pozzallo, Chiara Montaldo. Sono 301 in totale, di cui 45 donne e diversi minori, tantissimi somali eritrei, sono le nazionalità prevalenti. E le condizioni generali, insomma, considerando tutto, sono discrete. In tanti casi di scabbia, come spesso osserviamo ultimamente, che stiamo trattando all'interno del centro, febbre, infezioni respiratorie. Poi c'è la vicenda particolarmente preoccupante, un po' inquietante, dei 12 migranti che sarebbero stati gettati in mare perché cristiani. Ne abbiamo parlato molto qui su Radio 24 da ieri. Valentina, che notizie abbiamo su questo fronte? Intanto i 15 migranti arrestati con l'accusa appunto di averli gettati in mare hanno trascorso la loro prima notte in carcere a Palermo. Nelle prossime ore il procuratore capo del capoluogo siciliano chiederà al GIP la convalida del fermo per 14 di loro. Uno è minorenne, quindi toccherà alla procura dei minori decidere. Si è parlato appunto di motivi religiosi per questa rissa. Noi ne abbiamo parlato e abbiamo sentito il suo punto di vista con Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR. Abbiamo immediatamente parlato con loro, proprio eravamo lì. Quello che hanno raccontato è che sono stati prima per settimane senza mangiare dentro a dei magazzini, spesso vittime di botte, di minacce, esplodono in risse. C'erano diversi gruppi di nazionalità diverse, quindi da una parte nigeriani, ghanesi e dall'altra di lingua inglese e cristiani, e dall'altra parte malesi, senegalesi e ivoriani di lingua francese e musulmani. Lo scafista era a bordo e ha iniziato a minacciare le persone e a insultare in particolare questi nigeriani e ghanesi, probabilmente con degli insulti anche a sfondo religioso. Vorremmo tenerci molto cauti in questa delle risse, ripeto, non è un caso isolato. Il fatto di essere però islamici contro cristiani, lei l'ha sentito dalle testimonianze, voi l'avete sentito? Ma sì, ma sempre in rapporto alla loro provenienza nazionale. Ripeto, ci vuole cautela, non era in atto una guerra fra religioni lì, era in atto uno scontro verbale e fisico fra gruppi nazionali diversi. Grazie alla nostra Valentina Furlanetto. E la questione libica sarà anche uno dei temi al centro dell'incontro fra Renzi e Obama. Il premier italiano è arrivato, come sapete, ieri sera negli Stati Uniti, ci informa in diretta Elisabetta Fiorito. Sì, oggi il premier Matteo Renzi incontrerà Barack Obama. Al centro dei colloqui la situazione esplosiva in Medio Oriente, anche il problema degli sbarchi dalla Libia, un viaggio però con lo sguardo allo strappo nel PD sulle riforme. Una mediazione c'è, ma non sulla legge elettorale, il premier insiste, l'Italicum non sarà modificata alla Camera, mentre si apre la possibilità sulle riforme istituzionali. Si va avanti però con un confronto parlamentare di merito, dice Renzi, nessuno scambio o concessione. Ma sentiamo che cosa ha detto il premier dagli Stati Uniti. È che io vi assicuro che noi faremo un paese in cui si va avanti, ma perché il merito conta. Se poi volete restare qui perché vi sposate, vi fidanzate, perché state bene, perché vi piace più gli Stati Uniti, good luck. Costi quel che costi, potrò perdere le prossime elezioni, ma non perderò la faccia davanti a voi. Ma sul fronte della minoranza, soprattutto da parte dei bersaniani, si chiede di scoprire le carte al ritorno degli Stati Uniti per far capire come intende Renzi cambiare la riforma costituzionale del Senato. Si chiede il modello che il premier vuole, Senato per le regioni oppure Senato delle garanzie. Per il dissidente Vannino Chiti si potrebbe procedere ad un Senato elettivo in concomitanza con i consigli regionali, ma senza che la Camera alta debba dare la fiducia ai governi né avere l'ultima parola su gran parte delle leggi. In pratica comunque sempre un superamento del bicameralismo perfetto. A te Piera. Grazie ad Elisabetta Fiorito e torneremo sulla visita di Renzi negli Stati Uniti alle 13.45 in America 24 con Mario Platero. Decine di migliaia di civili starebbero fuggendo da Ramadi in Iraq, che i jihadisti dell'ISIS hanno circondato e stanno bombardando. Testimoni hanno riferito che gli sfollati in auto o a piedi si dirigono verso Qalidiyah a 25 chilometri e poi sono diretti a Baghdad, che invece dista circa 100 chilometri. L'ISIS, da mesi vicino a Ramadi, ha lanciato un'offensiva pochi giorni fa. E un aereo della Turkish Airlines in volo da Istanbul a Basilea è stato costretto a ritornare allo scalo di Ataturk a causa di un allarme bomba. Su questo naturalmente vi terremo aggiornati. Passiamo invece alla pagina economica. Borse preoccupate per un default, quello greco, che sembra davvero sempre più probabile. Il premier greco Alexis Tsipras vuole restare nell'euro e il cancelliere tedesco Angela Merkel spera che Atene trovi la strada di un'intesa, ma lo stallo dei negoziati continua mentre il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha escluso ogni dilazione nei pagamenti del debito di Atene. Oggi i tassi decennali del Bund tedesco sono scesi praticamente a zero, mentre lo spread con i paesi mediterranei è di nuovo salito. Il bond biennale greco, ad esempio, viaggia sul 26% perché Atene è esclusa dal quantitative easing della BCE e oggi il ministro greco Varoufakis potrebbe incontrare il presidente Mario Draghi. La Grecia sta usando la liquidità dei fondi pensioni di aziende statali e amministrazioni pubbliche per pagare stipendi e prestazioni previdenziali. Gli occhi degli analisti sono puntati sull'Eurogruppo del prossimo venerdì in Lettonia, ma l'intesa sarà raggiunta probabilmente solo all'ultimo momento. Nessuno si può permettere uno stato fallito in mezzo al Mediterraneo, nemmeno i tedeschi. Vittorio Darolde, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Proteste questa mattina per l'annuncio ieri da parte di Whirlpool di oltre 1300 esuberi. Prima il blocco di alcuni accessi alla fabbrica, poi quello della superstrada Giuliano-Marcianise. Va avanti anche oggi la protesta dei lavoratori della Indesit di Carinaro in provincia di Caserta dopo l'annuncio della chiusura del loro stabilimento decisa dal colosso americano Whirlpool che lo scorso anno ha acquistato l'azienda. Gli esuberi previsti solo in Campania sono oltre 800. L'impatto sul territorio sarà devastante, dice il segretario della FIOM di Caserta, Massimiliano Guglielmi. La mobilitazione che è iniziata ieri, continuerà nei prossimi giorni, ci deve portare sicuramente a una soluzione, a una condizione per noi fondamentale. Il fatto che l'azienda deve rivedere le scelte fatte con questo piano industriale. Assolutamente per noi è impensabile immaginare un altro stabilimento chiuso in questa provincia. Scioperi e assemblee sono in corso anche nelle Marche, dove già ieri i lavoratori avevano bloccato la provinciale 256 per protestare contro l'accorpamento degli stabilimenti di Alba Cina e Melano, incluso nel piano industriale che prevede anche la chiusura del centro ricerca e sviluppo di None nel Torinese per un totale di quasi 1400 esuberi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 ore. E fra pochissimi minuti ai nostri microfoni i sindaci di Carinaro e Fabriano. Invece ora parliamo dei conti italiani che non tornano, sembrano non tornare, si riaffaccia l'ipotesi di una manovra aggiuntiva. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, è un legame sempre più stretto per il nostro paese quello tra riforme e sostenibilità dei conti pubblici. Senza le prime infatti che il governo si è impegnato a portare avanti si rischia un intervento correttivo da circa 6 miliardi di euro. L'allarme in tal senso arriva soprattutto dal servizio bilancio di Camera e Senato che sta esaminando in queste ore il documento di economia e finanza. Gli organismi parlamentari invitano allora Palazzo Chigi a completare il lavoro fin qui portato avanti dall'esecutivo. Primo nodo da sciogliere, il Jobs Act. Nel cronoprogramma del DEF manca infatti l'indicazione dell'adozione di decreti legislativi per il tax credit a favore del lavoro femminile, allo stesso tempo anche gli obiettivi di ricavi dalle privatizzazioni, sottolineano dal servizio bilancio, si stanno via via allontanando dai target indicati dall'Unione Europea. I tecnici invitano anche a valutare attentamente la destinazione del tesoretto, da cui dipenderanno effetti non secondari. Altro capitolo, il monte delle deduzioni e detrazioni fiscali. Ad oggi il loro valore è pari a 161 miliardi, in pratica il 10% del PIL. Da qui si punta a recuperare quelle risorse, circa 3 miliardi utili a disinnescare l'aumento dell'IVA, indicato a Bruxelles come clausola di salvaguardia. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. A Roma questa mattina caos per lo sciopero dei mezzi pubblici, ci aggiorna in diretta Alessandra Schepisi. Sì, davvero un venerdì nero per la capitale, dove sono in corso 3 scioperi del trasporto indetti da altrettante sigle sindacali UGL, SUL, TCT e Faesa Cisl, in particolare chiuse metro A e C, ridotte le corse su Roma Lido e Termini Giardinetti. Tutto ciò sta provocando parecchi disagi tra i passeggeri. Centinaia di loro esasperati stamani hanno occupato i vagoni di un convoglio della metro A ad Anagnina, che si era fermato perché il macchinista aveva appunto aderito allo sciopero. Gli utenti si sono rifiutati di scendere, mentre dall'altoparlante venivano invitati a evacuare treni, stazioni e fermate. La situazione, secondo alcuni testimoni, si è fatta incandescente, tanto che sono dovuti intervenire vigilantes e forze dell'ordine. Il convoglio è poi ripartito, finendo la corsa come previsto al capolinea. Stessa scena ad Arco di Travertino per un treno diretto al capolinea Battistini alla stazione di Ponte Lungo. Il Codacons parla di scene di panico, ha pronto un esposto alla procura e all'autorità di garanzia. Proprio l'autorità è in contatto da questa mattina con la prefettura di Roma per ottenere con urgenza ogni informazione su eventuali disservizi. Qualora venissero rilevate violazioni di legge, precisa l'autorità, non si esiterà ad aprire un procedimento per valutare l'adozione di sanzioni. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. E dalla capitale a quella che si sta per trasformare di fatto per qualche mese in capitale d'Italia, Milano si prepara all'Expo, ma con una data ben più vicina: domenica si prepara al derby della Madonnina. Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Di sicuro questa domenica non saranno in 100.000 per il derby, e non solo perché così tanti a San Siro non ci stanno più, ma anche perché questa nuova sfida capita in uno dei momenti più bui del calcio milanese, in una città che rialza la testa coi suoi nuovi grattacieli, con l'Expo alle porte, la Fiera del Mobile che è una movida permanente. Inter e Milan sono ai minimi storici. Bisogna tornare al 41-42, al 57-58 per trovarle così in basso, così depresse, tra contestazioni, allenatori in crisi e nuovi padroni che vengono dall'est per ridare ossigeno alle casse delle vecchie dinastie milanesi. Moratti ha già fatto le valigie, il vecchio Silvio tiene botta, ma ancora per poco. Una volta Milan e Inter erano lo specchio del benessere della città. Negli anni del boom spiccavano il Milan di Rocco e l'Inter di Herrera. Negli 80, quelli della Milano da bere, San Siro era il Bengodi del calcio, con Berlusconi e Moratti signori della scena. Ora che si dovrebbe ricominciare a sognare, siamo al blackout. Entrambe le società rischiano l'anno prossimo di restare fuori dall'Europa. Non è mai successo, proprio nell'anno dell'Expo. Qualcuno a San Siro riaccenda le luci. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Trovato l'uomo da 2 giorni in fuga dal Piemonte alla Spagna, con lui, come sapete, il figlio di appena 2 settimane, per fortuna entrambi stanno bene. Renzi negli Stati Uniti, Italy's back, dice nel pomeriggio italiano l'incontro con Obama. L'Italia, fa sapere il Premier, continuerà il suo impegno per stabilizzare la situazione in Libia. Sul fronte politico interno, Renzi invece apre i dissidenti sull'Italicum, il Senato può tornare elettivo. Sequestrato un peschereccio italiano al largo della Libia, a bordo 7 marinai. Intanto proseguono gli sbarchi, in 700 sono arrivati nelle ultime ore a Pozzallo. Carlotta Sami dell'UNHCR su migranti cristiani buttati in mare dice: notizia da prendere con cautela, sul barcone non era in atto una guerra fra religioni ma uno scontro fra gruppi nazionali diversi. La protesta dei lavoratori Whirlpool contro i 1300 esuberi, concluso il blocco stradale a Caserta, annunciata la chiusura degli stabilimenti di Carinaro e Nonone, accorpamento per quelli marchigiani di Albacino e Melano. Qui nascerebbe il maggiore polo europeo dei piani cottura. Ad effetto giorno fra pochissimo i sindaci di Carinaro e Fabriano. Sciopero dei mezzi pubblici a Roma ed è caos sulla metro A. Il treno alle 8.30 si ferma e i passeggeri furiosi occupano i vagoni. E ripartiamo con un aggiornamento sulla vicenda che stiamo seguendo da 2 giorni, perché davvero tiene tutti col fiato sospeso, la vicenda dell'uomo, del padre che ha sostanzialmente rapito suo figlio ed era in fuga dal Piemonte alla Spagna. Stamattina per fortuna è stato rintracciato. Ci aggiorna in diretta Cristina Carpinelli. Sì, è stato rintracciato in un centro commerciale di Albacete, in Castiglia-La Mancia, Enzo Costanza, l'uomo di 39 anni in fuga con il figlio di 15 giorni, quindi ha terminato la sua fuga. Il neonato è in buone condizioni, è stato trasferito in un ospedale pediatrico per un controllo. L'uomo, come dicevi, da martedì era scomparso da Orbassano in provincia di Torino, dove viveva con la moglie, lavorava come impiegato. Non è in stato di fermo dal momento che nei suoi confronti non era stato spiccato un ordine di arresto, ma soltanto una misura di protezione nei confronti del neonato, questo quanto dicono le fonti di polizia. In questi giorni, in una delle sue tappe, l'uomo avrebbe comperato latte in polvere per il piccolo. Non è mai stato violento con il bambino, era affettuoso e protettivo, questo quanto ha ribadito più volte la mamma del piccolo e moglie di Costanza, e carabinieri che da Torino hanno coordinato, devo dire con molta delicatezza, queste ricerche, nelle quali sono state coinvolte la gendarmeria francese e la guardia civile spagnola. Per ora è tutto, a te la linea, Piera. Ieri l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, Whirlpool, che annuncia 1.350 esuberi. Naturalmente i sindacati sono subito insorti, come è giusto che sia, fanno il loro lavoro. Lunedì in realtà ci sarà poi l'incontro con i sindacati per chiarire gli aspetti che il gruppo americano vuole mettere in campo. Salutiamo due sindaci molto interessati dalla ristrutturazione, dal piano di investimenti presentato ieri dalla Whirlpool. Salutiamo Giancarlo Sagramola, sindaco di Fabriano, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E salutiamo anche Marianna Della Provitola, sindaco di Carinaro in provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e buon lavoro. Cominciamo da qui, da Caserta, perché stamattina è in atto un'azione di protesta forte. Ci aggiorna da questo punto di vista? Sì, è in atto un'azione di protesta forte che è partita già da ieri, e praticamente l'annuncio della chiusura dello stabilimento Indesit di Carinaro è, per quanto ci riguarda, un provvedimento inaccettabile, oltre che disastroso per terra di lavoro, il che significa per noi, per quanto ci riguarda, la perdita del posto di lavoro per circa 800 dipendenti, oltre la morte dell'indotto. Chiaramente di fronte a questo atto, per quanto mi riguarda, guarda, irresponsabile ed insensato, che poi contraddice sostanzialmente gli stessi impegni assunti dall'azienda all'atto dell'acquisizione di Indesit da parte di Whirlpool, per noi è praticamente inaccettabile. La nostra è una terra già martoriata, già devastata, colonizzata dalla mafia, dalla camorra. Non è possibile che amministrazioni serie lavorano con la schiena dritta per cercare di risollevarne le sorti. Non è possibile che accordi capestri possano mandare per strada 800 lavoratori. 800. Anche perché il piano Indesit del 2013 non prevedeva esuberi di questo genere. Quindi, insomma... No, non prevedeva assolutamente questo, anzi gli impegni prevedevano praticamente il non licenziamento unilaterale fino al 2018. Mentre invece l'annuncio di ieri lascia presagire tutt'altro, chiaramente. Lei capirà benissimo che siamo praticamente sull'orlo del baratro per circa 800 famiglie. Le ripeto, oltre l'indotto, che morirà naturalmente di conseguenza. L'indotto che stima di occupazione? Circa 500, una stima precisa. Circa 500, ma oltre poi alla perdita, diciamo, di una eccellenza del polo industriale di Caserta, noi abbiamo maestranze, voglio dire, di altissimo livello, che dall'inizio degli anni 70, cioè dall'arrivo della Indesit nella zona industriale di Carinaro, abbiamo formato maestranze eccellenti, e io non so come si possa porre riparo ad una situazione del genere. Staremo a vedere anche, insomma, il governo come intende provvedere. La interrompo un attimo perché vorrei andare invece nelle Marche. Giancarlo Sagramola, sindaco di Fabriano, è qui invece che la Whirlpool intende investire maggiormente, perché vorrebbe fare dei due poli, no? Vorrebbe accorpare i poli di Albacina e di Melano e vorrebbe farne davvero il polo produttivo maggiore in Italia. Anche qui però ci sono state delle proteste. Sì, intanto sono vicino alla sindaco di Carinaro, che comprendo e mi sento molto vicino, perché io ieri ero con i lavoratori dell'Albacina, con i lavoratori dell'Indesit, Whirlpool, e li ho visti preoccupati e stravolti anche loro, perché anche loro hanno sentito di 250 esuberi, e ieri mattina si parlava di chiusura di Albacina, oggi si parla invece di razionalizzazione, riaccorpamento, ieri sera poi era un po' cambiata la comunicazione, e quindi adesso oggi sono tutti in assemblea continua durante tutta la giornata, sia a Melano che a Albacina, e poi vedremo. È che quello che ci crea preoccupazione è che un piano da 400 milioni di euro di investimenti non generi occupazione, o perlomeno non mantenga l'occupazione attuale. Questa è la nostra preoccupazione principale rispetto alla riorganizzazione che è in atto, e quindi chiaramente qui da noi si prefigura ancora quei 250 esuberi di cui si parlava. Su questo stiamo cercando di capire, bisogna approfondire questo piano, perché anche come diceva prima la sindaco di Carinaro, io non ne ho ancora contezza precisa. E vorrei avere prima i dati per esprimermi. Ecco, lei sembra piuttosto dubbioso anche sulla questione occupazionale. Dice, sommando le due aziende, le sembra un po' strano che si possano mantenere gli stessi numeri. Perché ha questo sospetto? Ma allora, ieri sera poi un po' è stato smontato, perché nel senso che è stato dichiarato che la produzione non sarà solo per l'area EMEA dei piani di induzione, ma sarà per tutto il gruppo Whirlpool. Questo certo cambia quindi i volumi di produzione, e gli 815 lavoratori che sono coinvolti in questo piano in questo momento all'incirca nelle fabbriche potrebbero trovare nel giro del triennio, perché qui io mi sembra di aver intuito che non dovrebbero esserci i licenziamenti fino al 2018. Sì, così è. Una previsione, se ho capito bene, in generale, e quindi questa cosa mi fa pensare, ma mi fa avere anche una prospettiva in un certo senso, perché io vorrei che dal piano uscisse proprio questa, una proposta per il futuro, che nei tre anni i lavoratori vengano riassorbiti, vengano riqualificati, vengano inseriti in un processo produttivo che preveda Caserta, che preveda Comunanza, che preveda Fabriano, che preveda Cassinette. Ecco, in particolare, per restare sulla sua zona, l'integrazione di Melano e Albacina creerà il maggiore polo europeo dei piani cottura, arriveranno le produzioni realizzate in Polonia, mentre poi a Siena rientreranno invece i congelatori che si fanno in Cina, a Cassinetta i microonde che si producono sempre in Cina. Quindi da parte della Whirlpool c'è anche un piano di investimenti positivo per il nostro paese, comunque, perché insomma che nelle Marche si riconquisti poi insomma quello che è un primato che negli anni buoni, negli anni pre-crisi le Marche già avevano, è comunque una notizia positiva. Sì, esatto, però lei me lo declina in un modo diverso da come è stato declinato ieri mattina. Certo. Io vorrei capire adesso, in un'interlocuzione più è serrata, prudente, giustamente lei è prudente, è certo. Vorrei verificare che questi dati corrispondano a quello che era stato accennato, e su questo si può discutere, si può parlare, anche perché non torneremo ai livelli pre-crisi in questo momento, però se c'è una prospettiva che dà speranza alle persone sconvolte di ieri e ai sindaci che io ho sentito, certo, questo ci mette nella condizione di poter capire e operare in una visione che oggi non è più quella localistica o locale, diciamo così, che avevamo prima, di una dimensione fabianese. Cioè, viviamo oggi una dimensione mondiale, che è quella di Whirlpool, che ha 75.000 dipendenti e chiaramente non ci vede più come ruolo di preminenza, e questo ci dà un po', ecco, ancora di sconforto, perché dobbiamo capire con chi interloquire. Certo, Sagramola e Della Provitola, iniziative comuni nei prossimi giorni, anche in vista lunedì dell'incontro sindacale? Sagramola. Io credo come quello che abbiamo fatto l'altra volta, già con Indesit agimmo insieme tutti i soggetti interessati, e io credo che dovremmo trovare una linea comune insieme, perché o se ne esce insieme da questa crisi o non se ne esce. Della Provitola si sente un minimo rassicurata anche da questa solidarietà di amministratori locali di zone che invece verrebbero meno penalizzate della vostra? Sicuramente il loro sostegno è forte e grande, e mi dà la forza per affrontare, diciamo, questa che per me è una piaga, guardi, perché affrontare quotidianamente già la disoccupazione che è alle stelle di questo territorio, si figuri, diciamo, a cercare di affrontare sanare il dramma di tante famiglie. È veramente, diventa veramente un'opera disumana. Detto questo, io ho chiesto immediatamente, lo chiederò anche nella immediata conferenza stampa, l'istituzione di un tavolo di concertazione a tutti i livelli, del quale naturalmente Carinaro, con questa amministrazione, con le parti sociali e con i lavoratori, dovrà essere presente, chiederà di essere presente, perché Carinaro chiede azioni concrete, non più chiacchiere. Grazie a Marianna Della Provitola, sindaco di Carinaro, grazie a Giancarlo Sagramola, sindaco di Fabriano. Una pausa, poi la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento dell'aggiornamento sui mercati finanziari. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Borse in diretta. Isabella Tasso di Radio Cor, buongiorno. Buongiorno. Allora, borse europee questa mattina tutte giù, a preoccupare tanto per cambiare la Grecia. Sì, come ieri gli investitori sono preoccupati sul futuro della Grecia, dove le casse statali si stanno svuotando. Domani è previsto un nuovo incontro a Bruxelles per fare il punto sulla situazione e preparare il terreno per una soluzione che porti a uno sblocco degli aiuti internazionali. Al momento non ci sono tuttavia segnali di passi avanti. Anche la borsa di Atene, che fino a poco fa saliva di oltre l'1%, ha invertito la rotta e cede l'1,5%. Milano e Madrid perdono quasi il 2%, Parigi lascia sul terreno l'1,2%, Francoforte l'1,7%. Grazie ad Isabella Tasso di Radio Cor. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E noi torniamo sulla notizia data nella prima parte di Effetto Giorno, il sequestro del peschereccio italiano al largo della Libia. Dicevamo in apertura che questo fatto non può che acuire la tensione con un paese dal quale partono i barconi carichi di migranti. Oggi pomeriggio l'incontro di Renzi con Obama, anche qui sul tavolo l'argomento Libia. Insomma, la Libia sembra davvero essere al centro di varie tematiche. Di questo vogliamo parlare questa mattina con Arturo Varvelli dell'ISPI. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, dicevamo, il sequestro del peschereccio, ovviamente ancora non si sa, non si hanno molte notizie su questo argomento, però che cosa può essere successo secondo lei? Fa parte di una strategia libica, se questo si può dire, visto che non c'è un governo e quindi non si sa la strategia da parte di chi a questo punto, per acuire le tensioni con il nostro paese? Ma è difficile dirlo e onestamente, come dicevate giustamente, correttamente, non ci sono abbastanza notizie, informazioni, bisognerà un po' capire meglio che cosa è successo e anche con riferimento alle cose che stanno succedendo, agli altri fatti avvenuti relativamente alla migrazione in questi giorni. Quello che sta fomentando questo fenomeno è il fatto che sempre di più le milizie che detengono il reale controllo territoriale del paese, un paese che è frammentato politicamente ma anche dal punto di vista della sicurezza. Non dobbiamo pensare che ci sia una strategia unitaria da parte delle milizie, ma ogni milizia fa i propri affari e buona parte di questi affari deriva proprio dal controllo territoriale. Controllo territoriale vuol dire che controllano i traffici umani, traffici clandestini, traffici di qualsiasi tipo, dalla droga alle sigarette, certo, alle armi eccetera, e ne fanno un business. Quindi naturalmente è sempre più importante per loro il controllo anche di queste tratte, sia all'interno della Libia verso l'Africa, sia naturalmente nel Mediterraneo. Ecco Varvelli, oggi pomeriggio Renzi vede Obama, ha già detto che dirà ad Obama che l'Italia continuerà il suo impegno per stabilizzare la situazione in Libia. Cosa va a chiedere ad Obama il nostro Premier? È molto probabile che vada a chiedere una sorta di maggior coinvolgimento, non tanto degli Stati Uniti ma della comunità internazionale, cioè va a chiedere a Obama che gli Stati Uniti in qualche maniera si prestino per riuscire in qualche maniera a mettere in campo qualcosa di simile a una coalizione internazionale, se non a estendere la coalizione internazionale che già esiste e sta operando su Siria e Iraq, coinvolgendola anche sulla Libia. Tutto questo nell'ottica di contrastare l'ISIS non solamente in Siria e in Iraq ma anche nelle sue propaggini nordafricane. Grazie ad Arturo Varvelli dell'ISPI. Cambiamo argomento. momento l'Italia si prepara a celebrare il 70° anniversario della Resistenza. Su questo l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Nei giorni in cui si celebra il 70° della liberazione dal fascismo e dall'occupazione nazista, vi racconto oggi una storia che ha attraversato la più grande storia italiana, è quella di Leone Ginzburg, intellettuale formidabile, lavoratore antifascista. Fondò la casa editrice Einaudi, non imbracciò mai le armi ma sacrificò la sua vita in nome della libertà. Lo scrittore Antonio Scurati, nel suo libro Il tempo migliore della nostra vita, che esce proprio oggi, narra la vita di Ginzburg dal giorno in cui venne cacciato dall'università perché rifiutò di sottomettersi al fascismo fino a quello in cui fu ucciso in un carcere dai nazisti. Ma non è un saggio, secondo Scurati è un'opera letteraria. Esce oggi perché io, che sono un romanziere, certo non uno storico, in un momento di grandissima crisi morale oltre che finanziaria del nostro paese, nel novembre del 2011, lo ricorderete tutti, quando l'Italia era sull'orlo della bancarotta, sottolineo bancarotta morale prima che economica, trovai questa notizia che raccontava del ritrovamento della lettera autografa con cui Leone Ginzburg nel 1934, all'età di soli 24 anni, si dimetteva dall'università per non dover giurare fedeltà al regime fascista, rinunciando così a una promettentissima carriera, perché lui era riconosciuto da tutti come il più brillante intellettuale della sua generazione. In quel momento io, nella figura di Ginzburg, un tempo illustre e oggi un po' dimenticata, vidi, come dire, un contromodello rispetto a un po' alla decadenza dei tempi in cui noi vivevamo, e quindi decisi di raccontare la sua storia, di raccontarla a dei lettori che probabilmente non l'avevano mai sentito nominare, a nuove generazioni di lettori, e di raccontarla da romanziere. E questa mia scelta, che poi ho coltivato negli anni successivi, e il libro esce oggi, Il tempo migliore della nostra vita, e forse nasce anche da una ritrovata libertà di incontrare di nuovo la Resistenza. Resistenza, lo sappiamo, se ne è fatto un uso politico, ideologico, anche giusto, anche benigno per certi aspetti, per decenni dopo la fine della guerra. Poi c'è stato un momento invece negli anni 90 in cui c'è stata una controspinta di tipo revisionistico, ancora una volta politica, ideologica, di segno a mio avviso spregevole, secondo la quale appunto la Resistenza doveva essere proprio rinarrata come qualcosa quasi di abietto. Grazie a Dio anche quel riflusso è finito, e oggi io credo che sono molti i segni attorno a noi che ce lo testimoniano, che una nuova generazione di scrittori, ma io direi nuove generazioni di lettori, di cittadini, possono finalmente ritrovare, riscoprire quel periodo che per me è un periodo radioso e che può ancora illuminare le nostre vite, quello della Resistenza, della lotta di liberazione antifascista, senza più velami ideologici, da una parte e da un'altra, e ritrovarlo quindi in tutto il suo splendore. Il sacrificio di Leone Ginzburg è dunque quello di centinaia di migliaia di persone che si sono rifiutati di accettare le regole della dittatura e che oggi, a distanza di tanto tempo, amiamo ancora ricordare. Tutto per Effetto Giorno, condotto oggi da Maria Piera Ceci, grazie a Laura Faggini in redazione, a Paolo Corleone in regia. Fra pochissimo GR24.